24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Naturalmente in apertura il Consiglio europeo che si è tenuto ieri e giovedì a Bruxelles, nel quale si riponevano grandi speranze, un vertice che non ha deluso le attese. L'Europa chiude convincendo una 2 giorni di summit apertosi nell'incertezza generale. Per dirla col Premier Mario Monti, il vero playmaker del vertice, anche stavolta potrebbe non bastare, ma c'è più sostanza del solito. I 27 varano l'ormai scontato patto per la crescita pari a 120 miliardi, in realtà fondi riallocati più che nuovo denaro, ma soprattutto danno una risposta netta alla speculazione, seguendo una ricetta che l'Italia ha portato avanti con ostinazione, spalleggiata da Spagna e Francia. In un sol colpo si avvia il processo di integrazione bancaria, necessario preludio a interventi di ricapitalizzazione diretta degli istituti di credito, si toglie al meccanismo di stabilità lo status di creditore privilegiato, ma soprattutto si vara lo scudo antispread, una misura che consentirà al Fondo Salva Stati di acquistare, utilizzando la BCE come agente, i bond dei paesi nel mirino degli speculatori per calmierarne i rendimenti. Monti nega che questo equivalga a un commissariamento e spiega. Non c'è la troica nelle procedure previste per gli ESM, gli FSF. Il professore non prefigura differenziali di spread oltre i quali Roma potrebbe chiedere l'intervento del meccanismo, anche perché significherebbe aizzare gli speculatori. Infine ribadisce: al momento non intendiamo usare lo scudo, per il futuro si vedrà. E nel summit che segna la fine del monopolio Mercosur, proprio Angela Merkel non ci sta a fare la figura della perdente. Le condizioni del Fondo Salva Stati restano invariate, afferma la Merkel, prima di ripartire di gran carriera per Berlino. La cancelliera conferma l'assenza dell'FMI nel controllo sullo scudo antispread e definisce il summit un successo in grado di stabilizzare i mercati. Il francese Hollande incassa l'accordo su Parigi come sede principale della Corte europea sui brevetti e annuncia il varo della Tobin Tax europea in regime di cooperazione rafforzata entro fine anno. Alla fine nessuno ci sta a perdere. Persino l'euroscettico David Cameron parla di passo avanti. Stavolta l'Europa convince. La sfida si sposta ora sul medio periodo. Sergio Nava, Radio 24 e Sole 24 Ore a Bruxelles. Sentiamo sull'esito del vertice di Bruxelles il commento del corrispondente per l'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor, Antonio Poglio Salimbeni. Mario Draghi ha detto espressamente che si tratta di risultati tangibili per l'Eurozona. Condivido pienamente questo giudizio. In effetti questo è il giudizio generalizzato qua anche da parte di Angela Merkel. La cancelliera tedesca deve adesso vendere quanto deciso qui al Bundestag, al Parlamento tedesco. E infatti adesso dice che naturalmente la filosofia tedesca di approccio alla gestione della crisi dell'Eurozona non è cambiato rispetto alle premesse. In realtà molto è cambiato, ma lei ha questo problema ed è giusto che se lo ponga. La Casa Bianca, dal canto suo, fa sapere che il presidente Barack Obama, pur accogliendo favorevolmente le decisioni prese dai leader UE, si aspetta misure molto più dettagliate su come arrestare la crisi in Europa, considerando il risultato del vertice di Bruxelles solo come i primi passi di un processo che ne deve prevedere altri in futuro. Risposta più che positiva, invece, addirittura euforica, da parte dei mercati. Seduta da ricordare per le borse europee che hanno cavalcato l'accordo di Bruxelles sulla ricapitalizzazione delle banche e lo scudo anti-spread per mettere a segno rialzi importanti. A Piazza Affari il FTSE MIB ha guadagnato lo 6,59%, dodicesima migliore prestazione dal 1998, anno della privatizzazione della borsa. Più 6% per il FTSE All Share, mentre Parigi, Francoforte e Madrid hanno guadagnato tutte tra il 4 e il 6%. Sottotono soltanto Londra, salita dell'1,4%. Milano è stata trainata dal rally delle banche, grazie alle misure approvate dai leader europei e alla conseguente discesa dello spread. Rialzi in doppia cifra per Unicredit, più 14,6%, Intesa San Paolo, più 11,58%, Banco Popolare, più 11,31% e Popolare dell'Emilia Romagna, più 10,45%. Sul FTSE MIB ha chiuso in rosso soltanto Ansaldo STS, meno 1,15%, ancora penalizzata dalle preoccupazioni degli analisti sugli investimenti pubblici in infrastrutture e trasporti. Paolo Paronetto, Red Cor per Radio 24, Sole 24 Ore. Molto soddisfatto il premier italiano Mario Monti, sentiamo. In questi 2 giorni l'Unione Europea ha fatto importanti passi avanti e ha fatto importanti passi avanti in un modo e con una visione che corrispondono molto a quelli che in particolare l'Italia sostiene. Si è adottato un patto per la crescita e l'occupazione, il Compact for Growth and Jobs, che contiene una serie di importanti misure coordinate sia a livello europeo che a livello nazionale. Questo è un risultato veramente importante per l'Europa. L'Italia ha preso, come sempre, molto seriamente Sono soddisfatto e grato ai membri del mio governo. E allora sentiamo come hanno commentato l'esito del summit europeo i partiti che sostengono il premier Mario Monti. Con toni diversi la maggioranza applaude al risultato incassato da Monti a Bruxelles. Inevitabili anche i riferimenti agli europei di calcio. Ci sono due Mario da ringraziare, dice Casini, UDC, riferendosi al premier e a Balotelli. È finita l'epoca dei saldi di fine stagione, di un'Italietta che non sa parlare il linguaggio europeo. Finalmente Monti ha dimostrato che cosa significa governare un paese, rappresentarlo nelle sedi internazionali. L'Italia ha giocato bene anche a Bruxelles, ma la partita non è finita, aggiunge il segretario del PD Bersani. Cauti i giudizi nel PDL, che attende di valutare l'impatto del vertice sull'andamento degli spread e della crescita, così Cicchitto. Monti è stato rafforzato nella sua capacità negoziale dall'atteggiamento della maggioranza, dalla generosità del PDL che gli ha dato via libera malgrado che su alcuni provvedimenti del governo avesse un forte dissenso. Dall'opposizione il leghista Maroni si dice scettico sul successo di Monti a Bruxelles. Bene, lo scudo antispread è una misura giusta ma non basta, ora servirebbe una vera banca centrale europea, commenta infine il presidente di Confindustria Squinzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Voltiamo pagina. Commissione europea contro compagnie telefoniche. Da domani, 1 luglio, costerà meno fare telefonate, navigare su internet e mandare SMS da paesi dell'Unione europea diversi dal proprio. Risparmi fino al 70%. Questo è il risultato di un intervento della Commissione europea che ha stabilito una nuova serie di limiti tariffari al roaming. Dal 1 luglio telefonare, mandare SMS o utilizzare internet con il proprio telefono cellulare in un paese dell'Unione europea diverso dal proprio costerà molto meno. I nuovi limiti saranno di 29 centesimi al minuto per chiamare, 8 centesimi al minuto per ricevere chiamate, 9 centesimi per inviare SMS e 70 centesimi per ogni megabyte scaricato, IVA esclusa. Proprio sui megabyte e quindi sulla navigazione internet le nuove regole permettono i maggiori risparmi. Scaricare un megabyte al momento può costare fino a 4 euro. Ma non è tutto. Entro il 2014 la Commissione ha in programma di abbassare ancora le tariffe massime. Davide Maria De Luca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il prossimo autunno la Commissione europea presenterà una serie di nuove regole sul gioco d'azzardo online, con l'obiettivo di proteggere i cittadini e garantire allo stesso tempo i diritti degli operatori del settore. Lo ha annunciato il commissario per il mercato interno e i servizi, Michel Barnier, intervenendo a un evento organizzato al Parlamento europeo. C'è bisogno di varare normative a livello europeo perché nessun Paese membro può pensare di poter rispondere ai rischi di questa attività nell'era di internet, ha spiegato Barnier. La comunicazione dell'esecutivo comunitario punterà a difendere i 7 milioni di europei che giocano online, sviluppando garanzie minime in tutta l'Unione. Particolare attenzione sarà rivolta ai minori a cui deve essere impedito l'accesso ai siti tramite moderni strumenti di controllo dell'età. Il commissario promette inoltre una lotta efficace contro i siti illegali con strumenti più rigorosi. A tal fine però è anche necessario aumentare l'offerta legale e renderla più attrattiva. Infine Barnier ha promesso che le regole dell'Unione Europea non dimenticheranno il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo, puntando sulla prevenzione e sul recupero dei giocatori incalliti. Sei paesi del sud Europa sono nella morsa del caldo estivo. In Gran Bretagna l'ondata di maltempo eccezionale continua a nord e si sposta al centro. Un uomo è morto travolto dalle inondazioni nelle Midlands. Straripati fiumi e torrenti, trasporti nel caos, con strade chiuse e parecchie linee ferroviarie interrotte, migliaia le case rimaste senza elettricità. Nei giorni scorsi, nel Galles, centinaia di persone sono state costrette a evacuare e fango e acqua hanno rovinato il festival rock dell'isola di Wight. A rischio anche la fiaccola olimpica. Per evitare malaugurati spegnimenti ha fatto il tragitto da Lincoln a Nottingham in macchina. I forti acquazzoni, che secondo il servizio meteorologico britannico non sarebbero ancora finiti, hanno bloccato perfino le forze dell'ordine. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.